America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Una festa sui prati, una bella compagnia. Una festa sui prati, Adriano Celentano. Beh, molti di voi saranno appunto a fare la festa sui prati e quindi probabilmente non mi starete ascoltando, ma per coloro che invece sono in macchina e si stanno dirigendo alla festa sui prati o alla colazione o una festa in famiglia, buona Pasquetta a tutti. Perché vi ho proposto una grande canzone italiana? Perché in America è difficile trovarla una canzone che rifletta lo spirito della Pasquetta, perché la Pasquetta non c'è, non si celebra, si lavora, la borsa è aperta, la festa, in realtà la mezza festa c'è stata il Venerdì Santo, la borsa era chiusa di Venerdì Santo, molti altri uffici, negozi, eccetera, eccetera, erano aperti, però, diciamo, è più festa il Venerdì Santo che non il lunedì di Pasquetta. Comunque, l'atmosfera pasquale negli ultimi giorni c'è dappertutto, c'è in Italia e c'è naturalmente in America. Pasqua, festa della resurrezione. E allora mi viene una riflessione, perché forse è proprio per questo che il periodico Cell Stem Cell ha pubblicato appena due giorni fa un resoconto scientifico straordinario, e cioè due scienziati hanno clonato per la prima volta cellule prelevate da due uomini adulti per creare la vita, per creare in sostanza degli embrioni al primissimo stadio che riflettono perfettamente il DNA dei due donatori. I donatori sono un uomo di 35 anni e un uomo di 75 anni. La cosa importante soprattutto è che siano uomini cresciuti, 35 anni un uomo giovane, 75 anni un uomo più anziano, ma che siano comunque degli uomini, come vi dicevo, grandi. Perché finora si era riusciti a fare degli esperimenti simili soltanto con cellule prelevate dai feti embrionali. L'aver condotto con successo questo esperimento su cellule mature è veramente una svolta chiave. Intanto perché dobbiamo chiederci inevitabilmente se è possibile che da questo embrione possa derivare un essere umano. E questo, è difficile, anzi a questi stadi di progresso della scienza è di fatto impossibile, anche se è solo questione di tempo, ma ci sono delle implicazioni, come vedremo più avanti, anche dal punto di vista, etico-morale. Esperimento importante perché ci sono già scienziati che lavorano sulle cellule staminali che hanno prelevato da embrioni, naturali, per esempio Eva Feldman, che ho intervistato a Detroit a suo tempo. We completed 18 operations. Ecco, la Feldman qui mi spiega di aver già completato delle fasi nei suoi esperimenti, ma non soltanto esperimenti, perché mi dice: abbiamo completato la prima fase scientifica sotto il controllo della Federal Drug Administration e siamo alla seconda fase. Nella prima fase, dice, abbiamo portato a termine 18 operazioni in cui abbiamo iniettato le cellule staminali nella spina dorsale. La Feldman fa degli esperimenti per il morbo di Göring, che è un'altra malattia del sistema nervoso, un po' come il Parkinson, ad esempio. E lei mi dice, ovviamente dovevamo trovare un modo per iniettare queste cellule in modo sicuro, quindi abbiamo inventato qui all'Università del Michigan un catetere flessibile e attraverso la risonanza magnetica abbiamo misurato lo spessore della dorsale di ogni singolo paziente. Per ognuno di loro è stato prodotto un catetere apposta. La prima fase di questo esperimento è andata benissimo. Oggi abbiamo operato il 50° paziente. Cerchiamo di operare un paziente alla settimana proprio perché i risultati sono stati così sbalorditivi. Alcuni dei pazienti, mi dice, che abbiamo operato all'inizio del 2010 sono vivi, camminano e stanno bene. Questi pazienti sarebbero morti senza questo tipo di innovazione scientifica. Ecco, la sfida etica-morale ovviamente è una sfida difficile, perché se torniamo alla notizia degli ultimi giorni, di cui vi ho detto in apertura, ovviamente ripropone una serie di implicazioni etiche, religiose, di una tematica così difficile, spinosa. Salviamo un embrione che potrebbe diventare vita, ma forse no, oppure salviamo una persona matura grazie alle cellule di quel embrione. Ecco, anche se siamo a cavallo di Pasqua, io preferirei tenere magari un pochettino da parte la questione etica-morale, magari la affrontiamo in un altro contesto più tardi, ma vorrei soffermarmi su tre implicazioni laiche che derivano da questa scoperta, implicazioni importanti. La prima riguarda le applicazioni. Un esperimento di questo genere, condotto con cellule anziane, può avere un impatto rivoluzionario, per esempio, al di là del morbo di Göring o di Parsi, ad esempio per la cura dell'Alzheimer, che è una delle malattie più tragiche della vecchiaia. E dunque ecco che il problema fare o non fare si ripropone. Dunque consentitemi almeno un quesito sulla questione morale che rivolgo a tutti voi. Poi potete anche scrivermi @MarioPlatero su Twitter, la mia email. Però ecco, riflettiamoci un attimo. Bene, qual è la riflessione che vi propongo? Se il problema religioso è legato al rischio, al pericolo inevitabile di uccidere l'embrione prelevando le cellule staminali, ci sono una gran quantità di embrioni in vitro congelati che sono stati poi stanziati e sono stati destinati a questo tipo di esperimento. Ma vi dicevo, se l'esperimento invece è condotto grazie a delle cellule di adulti, non si distrugge un embrione naturale esistente e dunque non si distrugge un possibile feto in arrivo. Digital technology and biotechnology companies, the high-flying stocks over the last two years have taken a beating recently. Ecco, il secondo punto della riflessione laica riguarda lo sviluppo industriale delle aziende biotecnologiche. Avete sentito dallo spezzone che ho preso dalle news insomma, questo lo sapevate perché ne abbiamo parlato più volte, ma che insomma che i titoli biotecnologici hanno sofferto molto nelle ultime settimane. Pensate che addirittura in una giornata, come diceva l'annunciatore, hanno portato a ribasso l'indice del Nasdaq del 3% in un sol giorno, trascinando tutto il mercato a ribasso. Che cosa è successo? È successo che il mercato, come sempre succede, fiuta questi possibili sviluppi rivoluzionari e dunque aveva investito in modo straordinario sui titoli biotecnologici, che però avevano forse corso troppo. Pensate che quelli che sono stati sottoposti a maggiore ondate di vendita, quindi che hanno perso il 7, l'8, il 10, il 12%, restavano comunque al netto rispetto all'inizio dell'anno, quindi da gennaio, con guadagni del 30-40%. Ora, che succede? Che da questo sviluppo dell'altro giorno, se positivo, eticamente accettabile, soprattutto se produttivo, potremmo probabilmente avere come conseguenza un'altra ondata di crescita e di forti cambiamenti sia sul piano industriale e della produzione di farmaci che naturalmente su quello finanziario, perché la borsa poi queste cose le digerisce bene, capisce in che direzione ci si sta muovendo e inevitabilmente, sia che questo succeda adesso sia che succeda più tardi, lo sviluppo è comunque inarrestabile. And right now we're on the brink of amazing breakthroughs. Presidente Barack Obama che parla proprio di questa tematica, della tematica scientifica, ma con un taglio molto particolare. Perché? Perché la terza sfida dal punto di vista laico riguarda le leggi. Una cosa è curare malattie terribili, un'altra cosa è sperimentare in laboratorio con esseri umani clonati in provetta, soprattutto se si cercherà di clonare attraverso manipolazioni genetiche superuomini. Ci sono ricerche molto chiare sul fatto che alcuni hanno sperimentato per mettere a disposizione di un padre o di una madre la scelta del colore dei capelli o degli occhi dei propri figli per decidere se avrà caratteristiche atletiche o di grande intelligenza. Sono operazioni costosissime da fantascienza, per ora sono allo studio soltanto dal punto di vista teorico, ma chiaramente finiranno per creare un altro grande divide, perché solo i più ricchi potranno permettersi dei figli non soltanto sani crescendo ma anche belli, intelligenti, eccetera eccetera. E dunque questa per ora sembra fantascienza, ma non lo sarà per molto. Ci vorranno delle leggi che limitano questi esperimenti, magari da aggiungersi a quelle importanti, morali, che in fondo hanno un grande background di saggezza, che rivisitiamo ogni anno durante la Pasqua. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. La ricerca scientifica dunque ha compiuto un nuovo piccolo miracolo. Come canzone del giorno, non potevo che scegliervi di Whitney Houston, Miracle. Nulla dovrebbe importare, dice Whitney, quando l'amore cresce, quando la scelta è tua e quando c'è un miracolo in arrivo. Di Whitney Houston, Miracle. Da New York è tutto. Buona Pasquetta. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.